No, scusa, ma è cascina da un po'. No, ma è vero, mi sono voluto un po'. E vi chiedevo, ma dopo di essere qui. Mi sono Ja. Das ist nicht schlecht.